potatv.it. Oltre lo specchio, dentro la mente. Scienza, affordance e vita quotidiana con il tuo cane. Benvenuti in una nuova prospettiva della cinofilia moderna. scuolaformazionecinofila.it. Ok, analizziamo la questione. Perché è fisicamente impossibile farsi il solletico da soli? E voglio dire, cos'è a che fare questa impossibilità quasi infantile con malattie devastanti come la schizofrenia? O magari anche con le bugie quotidiane, sai, quelle che ci si raccontano per giustificare un piccolo furto in ufficio o cose del genere. Esatto. Sembrano tre universi completamente scollegati, giusto? Eppure il filo conduttore è uno solo, ed è letteralmente nascosto nei circuiti più antichi e primordiali del nostro cervello. È proprio così. Di solito, quando si cerca di capire come funziona qualcosa di complesso, ci si affida a delle mappe chiare. Prendi un'automobile, si ferma, apri il cofano, guardi lo schema del motore, indichi un pezzo. La logica è lineare, no? Certo, causa ed effetto. Ma quando si cerca di mappare la mente umana, quell'illusione di chiarezza sparisce all'istante. Totalmente. Ci si ritrova in questo territorio nebbioso dove la carne, i neuroni e la filosofia collidono in modo un po' disordinato. E l'immersione profonda di oggi ha proprio questo scopo ambizioso. Sì, l'obiettivo della nostra analisi è decodificare questa complessità. Vogliamo esplorare l'esatta architettura fisica dei nostri pensieri per capire dove finisce la realtà oggettiva e dove inizia l'illusione generata dalla nostra stessa biologia. E guarda, è un territorio affascinante proprio per la sua ambiguità. Perché per secoli si è tentato di separare il software della mente, cioè i desideri, le paure, la morale. Dall'hardware del cervello. Esatto, dalla massa grigia pulsante di elettricità. Ma la verità, e lo dicono le neuroscienze, è che non esiste alcuna separazione. Ogni singola decisione morale o impulso irrazionale ha un indirizzo fisico precisissimo nel nostro cranio. E per chi ci ascolta è fondamentale capire che non stiamo facendo un puro esercizio accademico. È uno strumento vitale. Assolutamente sì. Capire questi meccanismi significa smontare quel senso di totale smarrimento che, insomma, si prova quando si agisce in modo incomprensibile ai propri stessi occhi. Alleggerisce il senso di colpa, tracciando proprio l'origine meccanica di quelle azioni. Allora, partiamo proprio dall'architettura fisica. Prima di capire come il sistema possa andare in tilt o essere manipolato, dobbiamo identificare chi abita nella mente. Giusto, mappiamo il territorio. E la cosa sorprendente, che a me fa impazzire, è che i concetti classici della psicanalisi, quelli di Freud, che per decenni sembravano solo astrazioni poetiche, oggi trovano un riscontro spaziale e metabolico precisissimo. È vero, c'è una corrispondenza reale. Se prendiamo il modello freudiano e lo sovrapponiamo alla neuroanatomia, troviamo delle coincidenze perfette. Partiamo dalla base di tutto. L'esse. L'inconscio puro. Il motore. Il motore biologico per eccellenza, esatto. Se cerchiamo la sua sede fisica, dobbiamo scendere nelle zone più antiche e profonde del cervello, cioè il tronco encefalico e il sistema limbico. E lì sotto non c'è il linguaggio, giusto? Zero linguaggio. Non c'è logica temporale e soprattutto non c'è nessuna capacità di riflessione. Ci sono solo spinte primordiali pure. Jack Panksepp, uno dei pionieri delle neuroscienze affettive, ha mappato proprio in queste aree sette sistemi emotivi di base. Aspetta, i sistemi primordiali, vero? Sì, circuiti dedicati esclusivamente alla ricerca, alla paura, alla rabbia, desiderio sessuale, cura, panico e gioco. È puro istinto di sopravvivenza che, voglio dire, esige soddisfazione immediata, sparando segnali chimici fortissimi, senza badare minimamente alle conseguenze. Ok, frena un attimo. Seguendo questa logica, per bilanciare una forza così distruttiva e cieca, serve una controparte altrettanto potente, no? Per forza. Altrimenti saremmo dei selvaggi. E qui entra in gioco il superio, il nostro subconscio. Che risiede nella corteccia prefrontale e ventromediale. Ma ecco, ridurre la nostra intera bussola morale a un semplice freno a mano automatico o a una specie di software sociale mi sembra quasi cinico. Cioè, stiamo dicendo che l'etica umana non è altro che un calcolo di convenienza evolutiva programmato in un lobo. Messa in questi termini suona brutale, me ne rendo conto. Ma evolutivamente parlando, la moralità è esattamente una tecnologia di sopravvivenza. una tecnologia? Sì, la corteccia prefrontale ventromediale è una delle aree più recenti nello sviluppo umano. Senza questa specifica regione, la convivenza in grandi tribù per i nostri antenati sarebbe stata letteralmente impossibile. Ah, ci saremmo uccisi a vicenda per un pezzo di cibo. Esatto, o per il predominio riproduttivo, soccombendo come specie in poco tempo. Quindi il cervello ha dovuto sviluppare un inibitore. Il superio è di fatto un insieme di filtri appresi, regole e inibizioni fornite dall'ambiente e cristallizzate in percorsi neurali. Per garantire l'efficienza sociale, in un certo senso. Proprio così. La sua funzione biologica è inibire gli impulsi dell'esse calcolando le conseguenze sociali a lungo termine. E come lo fa? Usa l'ansia e il senso di colpa come delle scariche elettriche per fermare le azioni pericolose per la nostra reputazione nel gruppo. Quindi c'è questo conflitto armato perenne nel nostro cranio. Da una parte l'istinto animale che urla dal tronco encefalico, dall'altra l'ansia sociale che preme dai lobi frontali. Un bel caos, sì. E in mezzo a questo caos c'è l'io, la coscienza, che è situata nella corteccia prefrontale dorsolaterale. Il nostro narratore interno, il sistema esecutivo che usa la logica per trovare un compromesso. Se provo a visualizzare questa dinamica con un'analogia, mi viene in mente una scena quasi comica. Sentiamo, dimmi. È come avere un motore industriale gigantesco, nudo e crudo, che brucia carburante e vuole solo accelerare al massimo. E questo sarebbe l'ES. Ok, ci sta. E il superio? Sarebbero i freni automatici di emergenza, no? Quelli installati dalla società, tarati al millimetro e pronti a bloccarsi bruscamente alla minima percezione di un ostacolo sociale. Perfetto, sì. E l'io? L'io è questo autista sudato, chiuso in una cabina rovente, con le mani che scivolano sul volante, che cerca disperatamente di dosare l'acceleratore per non spegnere il motore e accarezzare i freni per non schiantarsi contro il muro delle regole sociali. È un'analogia azzeccatissima. E ciò che è affascinante qui è che queste tre entità non sono concetti filosofici astratti. Sono aree fisiche del cervello, in una costante negoziazione metabolica ed elettrica. Ma scusa, se questo povero autista suda così tanto solo per mantenere l'equilibrio interno, immagino che consumi un'energia metabolica spaventosa. Come fa l'intero sistema a non andare in sovraccarico sensoriale totale, considerando che nel frattempo il corpo si muove e interagisce con il mondo esterno? Ecco, questo è il nodo centrale della questione. Per evitare il sovraccarico e non impazzire letteralmente, il cervello ha dovuto inventare una distinzione rigidissima tra sensazione e percezione. Che non sono la stessa cosa. Affatto. La sensazione è un dato fisico grezzo, oggettivo e francamente stupido. Un recettore sulla pelle che si attiva per l'attrito, la temperatura o il sapore del fumo. Ma il cervello non può permettersi di ascoltare attivamente ogni singolo recettore. Esatto. Se elaborasse coscientemente tutto, andrebbe in tilt. Entra quindi in gioco la percezione, che è l'interpretazione del dato basata sulle aspettative. Il cervello crea un modello predittivo e decide cosa ignorare. E qui entra in gioco un paradosso biologico meraviglioso dai nostri documenti. Il lumbrico. L'umile lumbrico. Sì. Cioè, partiamo dalla neuroanatomia e finiamo a strisciare nella terra. Ma spiega perfettamente il concetto. Un essere elementare che scava gallerie. Mentre si muove e subisce attrito costante. Terra, rocce, radici che gli sfregano addosso in continuazione. Esatto. Ora, se quel lombrico fosse immobile e un granello di terra gli strisciasse contro, il sistema nervoso lo registrerebbe come una minaccia, scatterebbe per la paura di un predatore. Ma poiché sta scavando lui, rimane tranquillo. Come fa a non spaventarsi dei movimenti generati da se stesso? Ecco. Il segreto risiede in un meccanismo neurologico microscopico, ma vitale. Si chiama copia efferente. E questo è il concetto cruciale. Ecco dove le cose si fanno davvero interessanti. Perché questa copia efferente è un silenziatore interno, vero? Esattamente. Quando il sistema nervoso del lombrico invia un comando motorio ai muscoli, non manda un solo segnale, ne manda due. Due segnali? Sì. Il primo è il comando esecutivo ai muscoli per contrarsi. Il secondo è una copia esatta di quel comando, la copia efferente, che viene inviata ai sensori con un leggero anticipo. Un messaggio di preavviso. Letteralmente. È come se il cervello dicesse: «Ehi, sto scavando io, sto per generare questo attrito. Quando arriva questo solletico dalla terra, abbassa il volume, ignoralo. Ed è per questo che è fisicamente impossibile farsi il solletico da soli. Solletico non funziona, perché il tuo cervello ha già inviato la copia efferente alla corteccia, ha già mandato il post-it interno con scritto «L'ho fatto io». Pazzesco! Quindi il ricettore della pelle sente il tocco, la sensazione c'è, ma la percezione viene annullata alla radice. È la linea di demarcazione primaria della natura tra «io sto agendo» e «il mondo mi sta toccando». E immagino che la gravità di questo meccanismo sia immensa. Senza questo silenziatore preventivo saremmo paralizzati dal rumore del nostro stesso corpo. Saremmo in un cortocircuito perenne. Sentiremmo il sangue che pompa, il cuore che batte come un tamburo, i vestiti come un attacco fisico. La copia efferente ci salva la vita ogni secondo. Però aspetta, qui c'è un salto logico che fatico a chiudere. Dimmi. Capisco il muscolo dell'ombrico, capisco il braccio che si muove per il solletico, c'è un movimento fisico. Ma il pensiero? Come fa l'evoluzione ad applicare questo filtro ai livelli superiori? Il pensiero non ha muscoli. La confusione è legittima, ma le neuroscienze ci rivelano una cosa incredibile. Per il cervello umano, pensare è letteralmente come muoversi. È un'azione motoria inibita. Davvero? In che senso motoria? Quando formuli un pensiero o hai un sano dialogo interno, tu stai attivando le aree del linguaggio. Il cervello si prepara a muovere le corde vocali e la lingua, ma blocca il movimento all'ultimo istante. Ah, lascia solo l'attività elettrica. Esatto. Ed essendo trattato come un movimento, l'io invia una copia efferente anche per quel pensiero. Applica un timbro di proprietà che dice «questo pensiero è mio». Trasforma l'elettricità nella percezione di un'idea. Ok, questo è forse il passaggio più drammatico della nostra analisi. Perché? Cosa succede se questo timbro di proprietà scompare? Se il meccanismo si rompe? Succede un disastro patologico. Ed è quello che accade nella schizofrenia. Immagina che il cervello generi un pensiero, magari una forte autocritica dal superio, ma dimentichi di inviare la copia efferente. Salta la sincronizzazione. Sì, la corteccia uditiva riceve il pensiero, riceve la frase, ma senza l'avviso preventivo che dice «l'ho fatto io». Quindi cosa significa tutto questo a livello pratico per il paziente? Significa che il paziente percepisce la propria voce interna come se fosse il suono di un estraneo che parla nella stanza. Si perde letteralmente il confine del sé. Completamente. La sanità mentale, il nostro mondo interiore, dipende da questa fluidodinamica neurale. Questo solleva una domanda importante sulla nostra natura. Noi siamo macchine predittive. Se il cervello perde la capacità di prevedere se stesso, la mente si popola di allucinazioni uditive e di estranei. È sconvolgente e fa riflettere su quanto diamo per scontato il nostro senso di identità. La nostra realtà dipende da un microscopico post-it chimico in allegato a ogni pensiero. Assolutamente. Il confine è sottilissimo. Ma la fragilità non è l'unica cosa che spaventa, perché finora abbiamo esplorato il funzionamento sano con l'ombrico e il collasso patologico con la schizofrenia. Ma c'è un territorio più quotidiano e forse molto più insidioso. Ti riferisci all'uso intenzionale di questo sistema? Sì, l'hackeraggio della mente, l'ingegneria dell'autoinganno. Quando si usa questo sistema per ingannarsi deliberatamente. E qui la tabella dei nostri dati si unisce perfettamente. In questo stato di autoinganno, la copia efferente viene usata come un'arma. Un'arma per silenziare la voce del superio. Esatto, avviene un bypass del filtro morale. Facciamo un esempio pratico, quotidiano, per chi ci ascolta. Diciamo che si è in ufficio e si decide di rubare una penna. Infrangi una regola. Il famoso furto della cancelleria aziendale. Proprio quello. In teoria, l'azione scorretta dovrebbe far scattare il campanello d'allarme interno del superio e generare senso di colpa, giusto? Certo, i freni automatici dovrebbero bloccarsi. Ma non succede, perché si trova una giustificazione impeccabile. Mi sfruttano, faccio straordinari non pagati, mi merito questa penna. E l'autoinganno si attiva come trucco meccanico. Non è solo debolezza di carattere. Un vero trucco neurologico. Se colleghiamo questo al quadro generale, capiamo l'eleganza perversa del sistema. Nel momento in cui l'io formula la giustificazione, emette una copia efferente fortissima diretta al superio. Che dice «abbassa il volume»? Esatto. Dice «ignora l'impulso morale che sta per arrivare. L'ho già gestito io». E il risultato pratico è che il senso di colpa non lo provi per niente. Silenziato alla fonte. Pazzesco! Quindi, in pratica, la linea che separa la pura sopravvivenza biologica dell'ombrico, il genio, le illusioni rassicuranti che ci raccontiamo per non sentirci in colpa e la follia devastante della schizofrenia, è regolata dalla medesima valvola di fluidodinamica neurale? Dalla stessa identica valvola. È l'evoluzione che riadatta un vecchio trucco per nuovi scopi. Che viaggio immenso abbiamo fatto oggi! Se ci pensiamo, siamo partiti dall'architettura di Freud incisa fisicamente nei nostri lobi cerebrali. Siamo scesi a strisciare nella terra per capire come filtrare il rumore del mondo. Per poi arrivare a scoprire che le voci degli estranei e le bugie quotidiane sono due facce della stessa medaglia, la copia efferrente. E per concludere la nostra esplorazione, c'è un pensiero aperto, quasi provocatorio, che voglio lanciare. Se la percezione della realtà e la nostra stessa sensazione di essere noi stessi si basa su un meccanismo che serve essenzialmente ad abbassare il volume delle sensazioni per evitare il sovraccarico, viene da chiedersi cosa ci stiamo perdendo. Dal nostro sistema nervoso per permetterci di mantenere questa comoda illusione di controllo, forse non si sperimenta mai il mondo per quello che è veramente, ma solo la versione filtrata, abbassata di volume, che il cervello ritiene sicura da sopportare. Un pensiero su cui credo valga davvero la pena soffermarsi a lungo. Sicuramente, fa guardare alla propria mente con occhi completamente diversi. Potatv.it. Oltre lo specchio, dentro la mente. Scienza, affordance e vita quotidiana con il tuo cane. Benvenuti in una nuova prospettiva della cinofilia moderna. Scuolaformazionecinofila.it.